L'uomo, sua vocazione e missione. L'uomo ha dunque una peculiare missione nel mondo, perché per lui la creazione è in modo particolarissimo anche vocazione. L'uomo non è solo chiamato all'essere come le stelle o le pietre, ma è inoltre interpellato da Dio, che lo chiama per nome. L'uomo è creato per dialogare con il suo creatore, è chiamato ad essere figlio e a prendersi cura dei beni del padre suo. Per questo ha come missione quella di soggiogare la terra, Genesi 1:28, di lavorare e custodire il creato, Genesi 2:15. Gesù, in risposta alle critiche riguardo alle guarigioni miracolose di sabato, afferma di operare sempre, come il Padre suo opera sempre, Giovanni 5:17. L'uomo, immagine dell'immagine e figlio nel figlio, è chiamato a operare, a lavorare, manifestando e comunicando così la propria bontà. Il mistero dell'uomo è un mistero di fecondità, in quanto filiazione e paternità sono il senso del mondo. Per questo la fede nella creazione libera le capacità umane. Il mondo e la materia hanno un senso al quale l'uomo si può avvicinare senza paura. Tutte le divinità pagane rappresentavano forze naturali che incutevano timore per la loro potenza. Basti pensare alla forza rilasciata da un terremoto e alla chiara percezione della fragilità della vita e dell'opera dell'uomo di fronte ad esso. Il sole, la luna, il mare, le montagne e tutte le altre potenze che caratterizzano la natura suscitavano timore. Esse sopravvivono all'uomo e sono più forti di lui. Ma la rivelazione della creazione da parte di Dio ha permesso all'uomo di avvicinare queste realtà senza paura, perché esse sono sottoposte a un logos, hanno un senso che non è la mera forza, non è la necessità e l'arbitrarietà del destino, ma l'amore del Creatore, sebbene il peccato abbia in parte offuscato la percezione di tale amore e causato una disarmonia tra l'uomo e la natura. La capacità di leggere il mondo con gli occhi di Dio, la possibilità di cogliere l'amore come fondamento del reale grazie alla relazione personale con Lui, rendono possibile all'uomo intervenire sulla creazione, coltivarla, lavorarla. E ciò esprime e sviluppa l'immagine divina impressa nell'uomo dal Creatore. Ciò rende l'uomo più uomo. Lavorare è cammino di santificazione, come suggeriscono le numerose parabole di Gesù riferite alla pastorizia, alla coltivazione dei campi e perfino agli investimenti di capitale e ai rapporti con le banche. La fede, dunque, apre, dà slancio, perché il Cronos è riconosciuto come significativo, come tempo opportuno, nei Kairoi. La rivelazione del pleroma fa sorgere la speranza e permette di pensare in termini di profitto. Libera impresa, ricerca scientifica, progresso tecnologico e culturale sarebbero impensabili senza la visione cristiana della storia, che ha sottratto il mondo al dominio del fato per aprirlo alla visione della libertà. Il mondo greco conosceva il logos, ma come visto esso era inteso come legge di proporzione fissa, come rapporto geometrico che reggeva il mondo. Il creato era letto in termini di numeri e a partire dalle realtà fisiche. La ricerca del fondamento intellegibile, delle leggi necessarie che sostenevano queste realtà, ha dato origine alla metafisica. Il logos cristiano chiaramente comprende questa dimensione, ma non si esaurisce in essa, perché è più ampio e abbraccia l'ambito della libertà e dell'amore. La persona è il senso del mondo e tutto il cosmo è sottomesso ad essa, non al contrario. E tutto questo perché il Creatore è il Padre e quindi l'uomo è figlio. La parabola della cultura moderna ha portato a dimenticare questa verità attraverso un processo di secolarizzazione della concezione cristiana. L'incremento delle possibilità di agire sul mondo, i progressi tecnici e medici, la scoperta di nuovi mondi hanno portato l'uomo a confidare nei propri mezzi non solo come figlio che mette a frutto l'eredità e il dono paterno, ma come individuo autonomo. Si è perso di vista che tutto è dono. A poco il fare, l'azione, è passato in primo piano. I mezzi hanno preso il sopravvento sui fini, perché si è perso il riferimento al Creatore. Il dono è stato dimenticato, nel senso che il cosmo ha iniziato ad essere visto senza la relazione al donante. Ciò ha trasformato il mondo in materia da plasmare, da sfruttare, senza limite. L'unica barriera all'autonomia dell'uomo è imposta dalle possibilità tecniche, ma il semplice fatto che un'azione divenga realizzabile grazie al progresso tecnico la renderebbe automaticamente legittima e giusta. La prassi, il fare, i risultati economici o politici sono assurti al primo posto nella scala dei valori e le conseguenze sono tristemente evidenti. Essere uomo è anche un compito. Ognuno deve decidere cosa vuole essere come uomo e ognuno può decidere di rifiutare la filiazione per fare da sé. Se il creatore non è visto come padre, come autore del dono, allora il senso del creato è solo la lotta e la vittoria del più forte. Ma questa concezione trasforma il mondo in un campo di battaglia e un campo di battaglia non può essere una casa. A ciò può essere collegato l'insorgere del problema ecologico. Ecologia significa etimologicamente logos della casa, oikos. Pensiero che parte da uno spazio che è per le persone, per la famiglia, per la relazione. È nella casa che ci si ama, si generano i figli, si cresce. Il problema ecologico contemporaneo ha messo in evidenza il deficit del pensiero moderno in termini di casa. I disastri ambientali, lo sfruttamento senza limite delle risorse naturali e addirittura degli uomini, l'inquinamento, dimostrano che l'uomo non può fare quello che vuole, ma deve agire anche tenendo conto del fine e delle relazioni con tutte le altre persone. Qualcuno oggi accusa il cristianesimo della crisi ecologica proprio per l'opera di desacralizzazione della natura a cui si è accennato. L'invito a soggiogare la terra di Genesi 1:28 sarebbe la causa dei problemi attuali, ma questo atteggiamento dimentica che per il cristiano l'uomo è figlio che lavora il campo di suo padre. L'autonomia dell'uomo non è assoluta, ma è relazionale. Come i tralci della vite, l'uomo può essere se stesso, può essere veramente libero, solo quando rimane unito alla pianta. I problemi attuali sono frutto proprio della dimenticanza di questo aspetto. Se il mondo fosse davvero lavorato dall'uomo in armonia con il suo senso, dischiuso dall'amore di Dio, si presenterebbe come un'ammirabile collaborazione dove il frutto delle mani della creatura si integrerebbe perfettamente con l'opera del creatore. E questo lavoro a quattro mani è veramente possibile proprio grazie al logos umano, immagine del logos divino, che permette il dialogo, dialogos, tra il creatore e la creatura. Attualmente l'ecologia è un concetto molto forte, che deve estendersi anche all'uomo, alla famiglia, alla sessualità. Ogni dimensione umana ha un senso che non può essere violato senza pagare serie conseguenze. Le crisi economiche lo dimostrano. Ad esempio, cosa può succedere in una società dove le persone non sposate e senza figli sono la maggioranza? Una società dove l'atteggiamento consumistico è esasperato dal non avere nessuno al quale lasciare il frutto del proprio lavoro, nessuno al quale ridonare il dono. Per questo, oggi è quanto mai urgente annunciare che Dio ha creato il mondo per mezzo del suo Figlio, del Verbo, in modo tale che la logica del mondo è filiale e che per agire correttamente nei suoi confronti bisogna cercare di fissare lo sguardo sul Figlio unigenito amato dal Padre nello Spirito Santo. Il logos della casa, cioè dell'uomo, richiama così immediatamente il logos, Figlio del Padre. Con parole di Giovanni Paolo II, infatti l'uomo, nella stessa misura in cui cerca di scoprire, usare e ordinare in modo coerente le leggi e i valori del cosmo, non soltanto partecipa in maniera creativa all'autonomia legittima delle cose create, ma realizza in modo corretto l'autonomia che gli è propria. E così si incontra con la finalità immanente della creazione e indirettamente anche con il creatore. Viene come condotto dalla mano di Dio, il quale, mantenendo in esistenza tutte le cose, fa che siano quelle che sono. Gaudium et Spes 36, 2 aprile 1986. La felicità dell'uomo dipende dal comprendere che la sua vocazione è l'amore, che viene dall'amore e ha come fine l'amore. che l'atto costitutivo della sua esistenza nasce ed è essenzialmente segnato dalla libertà e da Dio. La terribile domanda esistenzialista, perché l'essere e non il nulla, proposta da Heidegger, ammette una risposta solo quando si arriva a riformulare la questione in termini di perché l'amore e non il nulla. Allora l'uomo può scoprire di essere stato costituito dall'amore del Padre e che per questo la sua esistenza acquista una dimensione eucaristica e filiale. Come ha scritto Filone, ebreo significa migratore. Il migratore Abramo diventa erede nel momento in cui riconsegna tutto ciò che ha e tutto ciò che è a Dio, riconoscendo che tutto ciò che viene da lui deve anche essere per lui. Prendi per me, Genesi 15:9. Anche se prendi, non prendere per te. Considera quanto ti è stato dato come prestito, un deposito, e restituiscilo a chi te l'ha dato in consegna. A un beneficio antico corrispondi con un beneficio nuovo. Esso ti è stato dato a credito. Salda il tuo debito in modo giusto e conveniente. Quis rerum divinarum eres sit 104. Il problema dell'autonomia dell'uomo si risolve grazie alla categoria di filiazione, che dovrebbe essere posta a fondamento di tutti i trattati, in quanto è l'unica in grado di unificare a livello profondo tutto l'edificio teologico al di là di ogni tempo e di ogni cultura. Dio crea perché è padre, per cui l'uomo è essenzialmente figlio. Il senso del mondo è il Cristo, figlio incarnato, che riceve tutto dal Padre e tutto restituisce a Lui. Joseph Ratzinger ha scritto in Introduzione al Cristianesimo che il figlio è puro essere da, in tedesco sein von, ed essere per, sein für. La seconda persona divina è Dio nell'eterno riceversi dal Padre e nell'eterno ridonarsi a Lui. Egli dunque è generato nel semplicissimo e perfetto atto di dono di sé da parte del Padre e di dono di sé da parte del Figlio al Padre stesso, il quale è per lui principio e fine. L'uomo è chiamato a imitare liberamente il Figlio, ridonando il mondo e se stesso al Padre. Dio non ha bisogno di nulla, ha creato per amore, ma proprio perché l'essere è dono, solo ridonandosi si può veramente essere. Vivere vuol dire ridonare il dono. Un racconto dei Chassidim presenta un'intuizione quasi cristologica di tutto ciò. Un famoso rabbi, Naum, spiegava che quando suo fratello, Rabbi Davide Moshe, pregava i salmi, Dio si rivolgeva a lui chiamandolo figlio mio e metteva nelle sue mani il mondo intero perché ne facesse quello che avesse voluto. E Rabbi Naum commentava che lui avrebbe saputo molto bene cosa fare, come aggiustare le cose. Ma Rabbi Davide Moshe semplicemente rimetteva il mondo nelle mani di Dio. Questo atto di fiducia, questa restituzione del mondo a Dio, mostra la piena comprensione che egli è creatore perché è padre. Solo guardando all'amore per possiamo scoprire la nostra origine da, riconoscendo nella corrispondenza di inizio, arché e fine, telos, il senso per soprannaturale, da della nostra esistenza. Per rispondere alla domanda chi siamo, dobbiamo guardare a Dio, alla Trinità, mistero di amore e di libertà. Questo permette di scoprire nella filiazione la chiave della nostra vita, che non si fonda sulla mera libertà da, cioè la mera libertà di scelta ed azione, ma è costituita come libertà per amare. Ciò può essere illustrato da una significativa coincidenza che caratterizza la lingua germanica, messa in luce da Franz Kafka. La parola sein significa in tedesco tutte e due le cose, essere e appartenergli, considerazione 46. Libero non vuol dire autonomo, ma figlio, che nel sud Italia significativamente si dice creatura. Ed essere figlio vuol dire volere liberamente quello che si è, poiché è l'amore che crea e poiché Dio è amore. La creazione dal nulla si rivela dunque come puro dono e quindi rivela Dio, il Dio amore, cioè la Trinità. L'amore è infatti dono, quel dono che eternamente unisce il Figlio e il Padre.